Il passare degli anni, come ha detto Felice anche adesso, esige da tutti il suo tributo, sia dal punto di vista delle cellule cerebrali che se ne vanno, sia da quello delle difficoltà a tenere dietro alle trasformazioni dei codici culturali, senza i quali è impossibile tenerci in contatto con i nostri simili. A un certo punto, com'è come non è, ci si accorge di non capire più tanto. Sarai tu che stai invecchiando, sarà il mondo che corre troppo in fretta, ma capita sempre più spesso di trovarsi a fissare qualcosa chiedendosi con aria ebete, ma cosa cacchio vuol dire? Io che di anni ne ho accumulati abbastanza, in questa malinconica situazione mi trovo ormai tutti i giorni, o quasi, per esempio di fronte ad affissioni pubblicitarie. La città è tappezzata di manifesti, piccoli e grandi, in nero colori, raffinati e volgari, che per quanto vi studi non mi dicono assolutamente niente. Devono voler dire qualcosa di comprensibile, visto che sono stati elaborati da specialisti della comunicazione al fine di comunicare. Qualcuno si sarà anche sbagliato, ma tutti certamente no, eppure non cessanti io proprio non li capisco. Però che mai la nuova onda a cinque porte affida le sue possibilità di far breccia sul mercato a quella sfilata di esseri mostruosi? Boh. Perché quella tal ditta di confezioni maschili è convinta che basti esibire la fotografia del vecchio Hemingway per spingere le masse ad approvvigionarsi dei suoi giubbotti? Mi sfugge. E cosa mi vorrà mai dire quella bella signora ben pettinata e ben truccata con un reggiseno in tessuto militare mimetico che per diffondere il messaggio di una cosa che si chiama Premamam Nuova Generazione si sollazza con un serpente, una mela e un bel bambinone biondo col pistolino al vento? La mela e il serpente mi fanno supporre che si tratti della nostra comune progenitrice. E sì, certo, anche lei in quanto tale dopo la cacciata dall'Eden deve aver conosciuto i problemi della maternità, ma l'idea che tutto ciò possa avere a che fare con la diffusione dei prodotti Premamam Nuova Generazione mi sembra soltanto vagamente blasfema. E poi mela, bambino e serpente tutti e tre insieme non danno senso. Da questo punto di vista, veramente, il manifesto che da un po' di tempo non mi dà pace è quello della ditta Cantarelli. Non chiedetemi lumi, io non so, non posso immaginare cosa produca la ditta Cantarelli. Per quel che ne so io, può essere una fondazione senza fine di lucro che ha lo scopo di diffondere manifesti sulle mura cittadine. Da quei manifesti, certamente, uno scopo preciso non si evince. Sono belli, eh? È una cornice bianca che inquadra una grande foto in bianco e nero, una di quelle foto un po' retro che adesso vanno, con un giovanotto e una ragazza stesi su un letto, altra superficie provvista di lenzuola, che teneramente si abbracciano. Lui è accuratamente pettinato e completamente vestito, scarpe, calzini, pantaloni di un completo gessato a strisce, la camicia solo un po' scompigliata. Lei no, è avvolta vezzosamente in quella che evidentemente è la giacca del completo di lui, ma è chiaro che sotto non porta molto. Comunque sono lì tutti e due ben coperti che si abbracciano, è molto carino, e lui è stato gentile a prestarle la giacca perché non prendesse freddo, ma cosa servisse a fini pubblicitari quell'immagine proprio non vi saprei dire. Se intenda raccomandare al pubblico il vestito, le lenzuola, il giovanotto o la ragazza, irrimediabilmente mi sfugge. Però è un'immagine gentile, fa piacere guardarla, e per questo mi è spiaciuto un po' che uno di quei manifesti proprio vicino a casa mia, su di esso sia stata sovrapposta un'altra affiche più piccola, di natura politica, una raffigurazione a tinte forti in rosso e giallo di una mano con un dito alzato in segno d'ammonizione, accompagnato dalla scritta "e io lo dico al PDS". Annuncio che serve ad informare, come si apprende un esame ravvicinato, dell'iniziativa a sezioni aperte di quel partito, per cui tutti i cittadini sono invitati ad affluire nelle sue sezioni per segnalare problemi e situazioni per qualche verso degni d'essere segnalati. Messaggio in sé chiaro e iniziativa mi sembra lodevole, ma pensate all'effetto completo di quelle due iconografie sovrapposte: due giovani si abbracciano e io lo dico al PDS. E cosa mai interesserà il PDS, viene fatto da dire, no? Cosa faranno in merito i suoi dirigenti? E soprattutto oggi che il buon D'Alema ha dichiarato che non bisogna lasciare ai cattolici il monopolio delle questioni morali, faranno interrompere quel pubblico abbraccio? Insisteranno perché siano rispettati i uovi tradizionali e la ragazza indossi qualcosa di più femminile? Non lo so. Sto scherzando. So benissimo che quella sovrapposizione è frutto del caso, che le affissioni politiche sono spesso lasciate iniziative dei militanti, sono opera da tacchini volontari che agiscono in fretta di notte e non hanno tempo da perdere studiando gli sfondi su cui applicare i loro cartigli. Eppure, un po' d'attenzione agli sfondi farebbero meglio a mettercela in questo e simili casi, perché l'operazione attraverso cui ritagliamo gli oggetti dal loro sfondo, decidendo che quelli vanno presi in considerazione e quello no, è una delle operazioni basilari della nostra percezione e non sempre si lascia guidare dalle consuetudini invarse e dalle convenzioni accettate. Il senso dei messaggi grafici, come di quelli verbali, è una cosa che ci deve mettere colui che li recepisce. Ed è in gran parte proprio il frutto di una consuetudine invalsa, e lo si ottiene collegando quello che si percepisce a dei modelli culturali di cui si dispone e ai codici di comunicazione che si padroneggiano, almeno finché ci si riesce, perché come vi dicevo all'inizio non è così facile. E per questo esiste sempre il rischio di fuorviare i destinatari dei propri messaggi, creando e sottoponendo loro degli oggetti di percezione variamente fallaci o ingannevoli, come una mano che si leva ad ammonire due giovanetti abbracciati minacciando di dirlo a qualcuno che evidentemente potrebbe avere qualcosa da incepire. Che poi questo qualcuno non sia il babbo di lei o la fidanzata di lui, come si sarebbe supposto una volta, ma sia appunto il PDS, è ovviamente una pura casualità. Ma con i tempi che corrono ci si può aspettare veramente di tutto.